Italia in controluce. Sono le 13:34 minuti e 19 secondi, oggi è il 16 marzo, è la seconda edizione di Italia in controluce, la finestra di Radio 24 sulla cronaca italiana, condotta e coordinata da Daniele Biacchessi. Come vive un latitante di mafia come Matteo Messina Denaro? Come si muove nel suo territorio? Quale rete di contatti è riuscito nel tempo a costruire? Stando alle ultime indagini, Messina Denaro è radicato nella provincia di Trapani ed è protetto da un muro di omertà, da un muro di gomma. Mai accaduto nel passato che personaggi del calibro di Totò Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, Salvatore Lo Piccolo, Lito Santa Paola vennero tutti arrestati esattamente dove erano nati, dove erano cresciuti, dove era cresciuto il loro spessore criminale. Il racconto di Nino Amadore. Tradizione e modernità. Un continuo scambio mutualistico con le istituzioni, le imprese e la società trapanese. Il mondo di Matteo Messina Denaro è tutto racchiuso in questi pochi ma sostanziali elementi, i quali gli hanno consentito fin qui di essere uno dei più imprendibili e temuti latitanti. Un latitante, Matteo Messina Denaro, che da qualche giorno è un po' più solo, secondo l'analisi di Giuseppe Linares, capo della squadra mobile di Trapani, uno degli investigatori che da anni è sulle tracce del capo mafia di Castelvetrano. Il contesto è caratterizzato dall'esistenza di una mafia borghese, cioè una base che si è fatta sistema e persegue rapporti mutualistici con pezzi del corpo sociale. Non chiede il pizzo a tappeto come nelle province signori come Palermo, ma si limita a chiedere a fare grosse estorsioni, il 3% di ogni grande appalto, agli imprenditori che provengono dal resto del territorio nazionale. Con gli imprenditori del posto ricerca rapporti mutualistici che possono consistere anche nell'appoggio per favorire la latitanza. Dopo decenni di una stillicidica quiescenza, subordinazione direi quasi psicologica al fenomeno mafioso, stiamo assistendo piano piano a una lenta risalita, però devo dire che in questo senso figure come quella del dottor Calanzaro, il dottor Robello, il dottor Montanti qui in Sicilia hanno fatto tantissimo e stanno ponendo le basi per una nuova coscienza imprenditoriale, la coscienza legale che vuole essere di supporto, anche di sostegno al lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. È vero che Matteo Messina Denaro può contare sulla complicità di pezzi delle istituzioni? La nostra trapanese, dicevo, ricerca rapporti mutualistici e lo fa anche con pezzi dello Stato quando questi pezzi sono recettivi al dialogo. Qualora questa cosa si dovesse verificare così come si è verificata nel passato, Cosa Nostra non esiterà senz'altro ad approfittare. Motivo di passaggio di favori, di rapporto di do to des, per cui il soggetto che fa parte della società civile si avvantaggia della vicinanza a Cosa Nostra come se avesse un plusvalore, una carta di credito da spendere, una credenziale dorata che lo può fare entrare in circuiti dove spesso vengono elargiti favori, elargiti appalti, controllate forniture. Tra i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro è stato fermato un signore ottuagenario che aveva fatto parte della banda di Turiddu Giuliano. Che ruolo aveva questo signore? È l'altra faccia del mondo mafioso di Matteo Messina Denaro, che se da un lato ricerca questo rapporto con l'imprenditoria, non disdegna comunque la sacralità, l'ortodossia di pensiero mafioso attraverso la saggezza di grandi vecchi che hanno solcato per decenni e decenni le vicende giudiziarie di Cosa Nostra della Trapanese, diventando una memoria storica, appunto come Nino Marotta. Da quanti anni lo cerca, lo annusa, come si suol dire? Lavora sul territorio trapanese da sempre, sono stati presi quasi tutti i latitanti del trapanese ed è rimasto appunto per lo più soltanto esclusivamente Matteo Messina Denaro. Le indagini adesso sono volte ad evidenziare non solo la struttura dei favoreggiatori ma anche la caratura stessa del personaggio. Prima che difende Matteo Messina Denaro è necessario eliminare la struttura dei mandamenti, soprattutto eliminare sotto il profilo giudiziario quei capi mandamento che, così come Matteo, erano, si trovavano in sole latitanze e che ne costituivano i più fedeli favoreggiatori sodali. Dopo i fermi dei giorni scorsi sarà più difficile per il capo mafia muoversi? Senz'altro sì, però Cosa Nostra ha dimostrato una grande vitalità nel reagire ai colpi durissimi inferti allo Stato, per cui la soglia di guardia non deve essere mai abbassata. Italia in controluce. Alle 13:39 minuti, 8 secondi, lasciamo la Sicilia, la lotta alla mafia E arriviamo in Calabria e vi parliamo oggi della situazione incredibile in cui sono costretti a vivere e lavorare i ferrovieri calabresi e a vivere e dunque e lavorare e spostarsi i cittadini calabresi. Il racconto di Paola Nania. La battaglia dei ferrovieri calabresi è isolata, ne parla qualche quotidiano locale, ma la loro voce rimane debole. Eppure denunciano la posta in gioco è alta, nei fatti e nel valore simbolico che si porta appresso. La questione nasce dalla decisione del Ministero dei Trasporti di tagliare dal 1 marzo 12 treni a lunga percorrenza, intercity notte che da Reggio Calabria andavano verso Milano o Torino. Non ci sono più, una parte di Calabria, quella forse più sofferente, la Locride, è praticamente tagliata fuori. Nessun treno che va verso il nord passa da questa fascia. Per partire bisogna cambiare mezzo una, due, tre volte. Giovanni Itri è il segretario regionale della UIL Trasporti, settore ferrovie. Quello che c'era prima deve essere restituito ai cittadini calabresi, perché questo taglio di treni taglia la mobilità, che è importante, isola territori come la Ionica, che li lascia completamente a vuoto di servizi di mobilità a lunga percorrenza, porta delle ricadute in termini occupazionali di oltre 100 unità, qualche 90 sono solo nei ferrovieri, più ci sono gli indotto, i servizi, quindi abbiamo oltre 100 unità di ricadute in termini occupazionali. 12 treni tagliati, dice Itri, posti di lavoro a rischio, ma anche uno schiaffo a una regione già povera che secondo i sindacati viene ulteriormente impoverita, ancora Itri. La politica di Trenitalia negli ultimi 5 anni o negli ultimi anni si è orientata verso le aree del nord, come vedi sul sistema di alta velocità da Napoli in su, e ha impoverito sempre più la Calabria, lasciandola sempre più povera, dando più ricchezza al nord, puntando sui treni al nord e togliendo al sud quel poco che aveva. Trenitalia non sta assolutamente, non ha puntato da molto tempo sul meridione, ma in particolare sulla Calabria. Trenitalia dal canto suo non capisce a che titolo venga tirata in ballo. Abbiamo firmato un contratto di servizio col ministero, dicono, siamo semplici esecutori. Il ministero dunque, ma anche qui poche risposte, anzi nessuno ufficiale. Capiamo che la decisione è nata dalla mancanza di soldi, da qualche parte bisogna stringere, e quei 12 treni notturni che dalla Calabria portavano a Milano o Torino non erano granché convenienti. La voce dei ferrovieri calabresi rimane debole, proveranno a farsi sentire con uno sciopero unitario del settore trasporti a metà aprile. Italia in controluce. Questa è la storia di una scuola, della lotta di un gruppo di genitori e di un quartiere di Milano. Il racconto di Cristina Carpinelli. La periferia nord di Milano, con i tram che corrono, i grandi viali che collegano al centro, la zona di Niguarda che sta a un passo dall'Interland, ma con tutta la sua identità di quartiere storico. Un'identità in movimento, forte, fondata sulla partecipazione. Perché Milano è così. E la storia che vi raccontiamo parte proprio da qui. Partecipare significa a volte anche sporcarsi le mani. E se non lo fai per il posto in cui vivi, che cosa insegnerai ai tuoi figli? Se lo sono chiesti i genitori di una scuola elementare, la Cesari. Da oltre 20 anni la scuola non veniva imbiancata. Nonostante le sollecitazioni dei genitori, i muri delle aule sono rimasti grigi e imbrattati. Fino a quando, un sabato mattina... Siamo partiti, ci siamo armati di buona volontà e ovviamente ci siamo autosovvenzionati per acquistare il materiale, ci siamo organizzati in modo tale che facendolo a pezzi la domenica sera i locali fossero agibili, perché il lunedì ovviamente i bambini avrebbero dovuto andare a scuola. Franco Michelin è un papà. Stiamo parlando di aule che non erano imbiancate da circa 20 anni, e con queste anche i locali della mensa dove i bambini mangiano. E quindi vi lascio immaginare che cosa non abbiamo trovato, a parte animali di tutti i generi, ma sporcizia diffusa in un modo che io sinceramente non ho mai visto. Il giorno successivo a questa nostra iniziativa è stata mandata una piccola squadra di periti da parte del comune per verificare le strutture, per esempio della palestra, che erano inagibili, però a parte questa, diciamo, uscita non è stato fatto nulla, quindi i bagni sono ancora nelle stesse identiche condizioni disastrate e precarie. Ci sono altri lavori da fare e ora i genitori ci credono davvero e a Milano ci credono in tanti e tutti pensano che unendosi si possano cambiare le cose. Si può essere indignati, ad esempio, per diverse ragioni, ancora Franco Michelin. Perché la Milano Ristorazione, per chi non lo sapesse, ha aumentato dallo scorso anno la retta in misure variabili dal 20 al 50% e il servizio che di conseguenza noi ne abbiamo è un servizio che dire pessimo è poco. Abbiamo riscontrato non una volta ma più volte la presenza per esempio di peli animali, cibi quali lasagne, ed è stato verificato che questi sono peli che provengono da code di animali, di mucche che vengono macellati insieme ovviamente alla carne. Dall'inizio di quest'anno Milano Ristorazione, che è la società che gestisce le mense scolastiche, ha aumentato la retta della mensa, ma a detta dei genitori la qualità del cibo non è aumentata. Per questo, per la seconda volta consecutiva, i genitori di molte scuole milanesi hanno organizzato lo Schiscetta Day. La schiscetta era il contenitore di latta con dentro il pranzo che gli operai milanesi si portavano da casa tanto tempo fa. Milano Ristorazione è interamente controllata dal Comune di Milano. L'azienda gestisce il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, i nidi d'infanzia nel Comune di Milano e la preparazione dei pasti per case di riposo per anziani, centri di prima accoglienza e scuole private convenzionate. Praticamente tutto. Sono 82.000 circa i pasti prodotti ogni giorno e 972 i dipendenti. Sui conti della Milano Ristorazione pesa un'interrogazione urgente di Patrizia Quartieri, consigliere comunale in quota Rifondazione Comunista, che ha chiesto spiegazioni sulle spese per promozione e per consulenze che dal 2007 al 2008 sono aumentate del 50%. Il comune non ha ancora risposto, né la Milano Ristorazione sta rispondendo ai genitori. Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, tutti i giorni due edizioni, 6:30 e 13:30. www.radio24.it, dove trovate l'archivio delle puntate, la bacheca di Radio 24 Italia in controluce su Facebook, oppure la mail controluce@radio24.it. A domani alle 6:30.